se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Voglio che vi alziate proprio adesso. Vi andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: "Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!" Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. Proviamoci subito, Vespa. Né io né mio padre non è neanche una domanda che prendo in considerazione. Sono umanamente al preoccupato, umanamente al suo fianco, ho risposto a Grillo che ha fatto una intemerata vergognosa dal punto di vista umano, pieno rispetto per la magistratura, la magistratura indagini, io non metto bocca su questa indagine, chiedo che si vada a processo, che si vada a fare sentenza, perché mi sono sufficientemente già a lungo impegnato nell'andare a vedere quanti casi di sentenze non si sono fatte, ma si sono fatte sui giornali. Mio padre ha un avvocato, si difende, racconta che cosa è successo, è assolutamente certo di essere innocente e fa la sua parte. È passato all'attacco. Dopo Lilli Gruber, 8:30, ora Porta a Porta, Vespa. È passato all'attacco, signori, come il Barcellona tenta la remontada. Ragazzi, la remontada, che nottata ieri. Grande Barcellona, che ha perso 4-0 all'andata, ieri ha vinto 6-1. 6-1, a un certo punto vinceva 3-0, poi quelli del Paris Saint-Germain hanno fatto il 3-1. Ne han fatti altri tre, l'ultimo al 96esimo. Mamma mia, il Barcellona. Speriamo vinca la Champions League a mani basse, la squadra più bella del mondo. E non me ne vogliono tifosi di altre squadre minori, eh? Il Barcellona. Riccardo da Champigny mi scrive in questo momento: "Che bello ieri qui a Paris, dopo il 6-1 sono distrutti." Vabbè, Riccardo, sei un po' cattivello però, sei un po' cattivello, adesso nulla contro il Paris Saint-Germain, però celebrare il Barcellona. Comunque, ci sono a Jesolo in questo momento 6 gradi, ce lo dice Ermanno, mentre a Milano, io faccio notare, ci sono 8 gradi. A Dubai, ci scrive da Dubai Simone, 18 gradi, evviva, evviva Simone. A Torino 4 gradi. La 4 verso Bergen, cioè Bergamo, 6 gradi. Aspettaci, siamo in lievissimo ritardo. No, cioè questo non so se è un messaggio stile Radio Londra. Ezio, aspettaci, siamo in lievissimo ritardo. Siamo una radio di servizio. Ezio, aspettali, sono in lievissimo ritardo, ma arrivano. Tu stai lì, Ezio, non ti muovere, non ti preoccupare, stanno arrivando. 5 gradi a Varese, 5 gradi a Ravenna, 8 gradi aria frizzante ad Arzignano. E poi 5 gradi a Colle Brianza, 5 gradi a Ferrara, 8 gradi ad Andora, saluto Enrico, 7 gradi a Bazzano, 4 gradi a Terni. E va bene. Saluto il direttorissimo di oggi, Umberto Brindani. Buongiorno, direttore. No, direttorissimo no, ti prego, buongiorno. Perché di chi è direttorissimo? Porta male. No, porta male? No, ma, scusa. ti ricordi chi era il direttorissimo? Aspetta, dimmi chi era. Era Minzolini, direttorissimo. Berlusconi lo chiamava così. No, è vero. Direttorone, buongiorno, grazie. Direttorone. Grazie. Va bene, come stai? Tutto bene? A Milano. Che partita ieri sera. Che gran remontada. Però, aspetta Umberto, qui dobbiamo fare con una signora cristiana, mamma di Benedetta, moglie di un leghista, emigrata però anche lei, quel di Cantù, è una giargia a Cantù praticamente. Aurora Lussana, buongiorno dalle Valli Bergamasche. Caro, buongiorno Aurora. Buongiorno caro Miren, un saluto. Io allora lo chiamo il direttore, che mi piace. L'Umberto. Chiamalo il direttore. Beh, l'Umberto poi ti piace tanto. È un momento di alta radio. Ieri era il compleanno di Aurora Lussana. 41. Auguri, allora. 41, ma no, io non te l'ho chiesti. No, e vabbè. Milan, diciamolo chiaro, la carrozzeria è andata, ma c'ho il motore che va ancora bene, quindi va bene così. La carrozzeria andata non è male. È vero. Allora, però oggi, però, caro Umberto, oggi è un compleanno, scusa, non vorrei, ma per una questione di riverenza, un pochino più importante. Ieri è il compleanno di Salvini. Ieri a Napoli l'hanno festeggiato così, per esempio. I centri sociali. No, questi sono contro, Aurora. Sì, ma sono 25 anni che i centri sociali cantano queste canzoni qua. Dei tempi di Formentini, amico, era il 93. Sì, che sì. Io andavo giù a sostenere il Formentini, era il 93. Cosa andavi dici? A Napoli? No, andavo giù a Milano e c'erano giù i centri sociali. Odio la Lega, sempre quel repertorio lì. Andavo giù a Milano. Sì. Vabbè, insomma, ce la fai un augurio a Salvino? A Salvini? Sì. Io, sì, certo. Sì, te lo ricordi quello di Marilyn Monroe? Stile. Dai, cantala in bergamasco, quello che vuoi. Quello che vuoi. Tanti auguri al Matteo, no? Siamo 44 ne fa il nostro. Dai, un po' più con un po' più di passione. Glielo mandiamo poi su WhatsApp. Dai. Tutta niente. Notte. Brindani, niente. Fammi fare tutto ma non cantare, Milan. Ecco, niente, vabbè. La mia buona. Niente, dai. È un banale tanti auguri a Salvini, tanti auguri al Matteo, che può sembrare a Renzi. Sì, ho visto che ha fatto la torta con su lo stemma del Milan ieri sera. Vabbè, questa è una bella cosa. Una bella, cosa. Eh. Va bene, dai, apriamo il Parlamento. Allora. Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Allora, caro direttore, fa bene Renzi a partire all'attacco, adesso basta, non ne può più. Chi gli tocca il padre muore, insomma, questo è il concetto. Fa bene... Sai, Renzi insomma deve riscendere in campo, perché presto ci saranno le primarie. A questo punto se la deve giocare, perché non è più tanto sicuro di vincere a mani basse, quindi... È logico e naturale che parta ad attacco. Però se posso dire una cosa, io su questa inchiesta, a costo di essere magari definito renziano, ma non no, ma frega. Guarda, dillo, perché so già che stai dicendo una cosa che stiamo dicendo anche noi da un po' di tempo, e so già, ho intuito. Ma guarda, dico solo una cosa: il babbo di Renzi, se non sbaglio, è accusato di un reato che si chiama concorso esterno in traffico di influenze illecite. Esatto. Ora vorrei che qualcuno mi spiegasse prima di tutto cos'è il traffico di influenze illecite. Cosa credo aver brigato. Tecnicamente certo. Così, lei ha brigato. Ecco, ha brigato, ma non ha brigato. Lui ha fatto a concorso esternamente a brigare. Cioè, dire, è una fattispecie di reato che molti lo dicono... lascia uno, come dire, uno spazio enorme a chi indaga e poco spazio a chi si difende. Esatto. Diciamo che bastano due chiamate per dire: oh, mi raccomando, mi dai un occhio a questa roba qui che ti mando. È molto facile essere profeti in questo caso e dire che tutta questa cosa finirà fra qualche anno in un'autentica bolla di sapone. Guarda, no, ma è il pensiero in realtà tutti i giorni. Qui qualcuno lo avanza perché l'idea c'è, cioè, è chiaro che politicamente ha una rilevanza. C'è la sfiducia a Lotti, eccetera. Ma la sensazione, cara Aurora, anche tu che sei un avversario politico, è che è questa: che al momento sì, è un gran parlare. Però, poi sai, c'è questo PM Woodcock che non ha, diciamo, cursus honorum così sì, diciamo, sì. Successi. No. E quindi alla fine, se metti tutto insieme, vengono un sacco di dubbi, dici, ma insomma. È logico che stia succedendo anche questo, è naturale, è logico. Dopo il 4 dicembre sapevamo, tutti sapevamo che sarebbe stato, l'avevo anche scritto, un gran casino, io forse ho scritto caos sul giornale. Per essere un po' più british, è un gran casino davvero. Vabbè, ma quindi approfittano i leghisti anche gli altri. No, ma in questi anni Woodcock ha dato da lavorare soprattutto ai giornali, ai giornalisti, ha fatto scrivere tanta roba, poi vabbè. Però vi piace questa inchiesta, vi piace questa inchiesta? Sì, no, vabbè, il Tiziano, sì, un bel traffichino lui, però se lo sono inventati loro, quel reato lì a sinistra, il traffico illecito, la Severino, quelle robe lì, hanno fatto tutto loro in questi anni, da soli, come sempre, a sinistra, fanno e disfano, però so che il papà Tiziano parte per Medjugorje, giusto? Sì, ogni tanto quindi, quelli sono fatti così, suoi. L'ho letto stamattina che sta partendo per Medjugorje, allora... Sì, no, dico, speriamo che pregando... si salvi, no, nel senso che lo vengo male, nel senso che povero, non sta neanche tanto bene il figliolo che gliene dice di ogni in televisione, sai, poi ma come gliene dice di ogni, dai, lo difende, sì, lo difende più o meno, sì, no, difende più Lotti, come abbiamo scoperto, quindi che vada un po' a pregare a Medjugorje a questo punto, perché fra Woodcock e il figliolo preghiamo. Ha bisogno dell'aiuto della Madonna, sì. questo ha bisogno dell'aiuto della Madonna, vada lì, ok, va bene, dai, mettiamola un po' da parte. No, mi ha molto incuriosito questa cosa, che è su tutti i giornali, io non so se è una boutade, se è una roba vera, l'avete sentita, la flat tax per attrarre i ricchi, cioè sostanzialmente hanno deciso così all'Agenzia delle Entrate, cari ricconi, proprio, ma quelli, cioè quelli alla Lussana, quelli che proprio hanno i soldi, che se li fanno rovesciare col trattore nella stalla, non li tengono neanche per lo schifo che hanno, per i tanti soldi, non li voglio neanche toccare, li tengono nella stalla, cioè gli sceicchi, le Lussana, no? Quelli che c'è, venite qui in Italia e per 15 anni pagherete solamente, perché per voi è solamente 100.000 euro l'anno. Pum, anche se guadagnate 200 milioni di dollari l'anno, 100.000 euro di tasse. E Salvini ha 2 anni che è in giro con il Siri, con la proposta della flat tax a girare il mondo. Sì, ma non per i ricconi, però. Lui la vorrebbe per tutti. Aliquota unica per tutti, no, va minga bene, solo ai ricchi, per far girare l'economia. E va bene, è così. Non vado per attrarre i ricchi, non so. Ma verrà il momento, va. Ci avremo ministro dell'economia, vabbè, ministro dell'economia, Umberto, io lo vedo con un po' di terrore, il ministro dell'economia, non so, uno che vuole la flex tax per tutti, l'aliquota unica, no, semplificazione fiscale per tutti, mica per quelli che hanno i soldi e basta. Va bene, non so, Brindale, tu che pensi questa cosa per attrarre i ricconi? Perché qualcuno dice è uno sconto ulteriore ai ricconi, cioè che... No. Sì, è una strana cosa che è venuta fuori così, come un forse come un ballon d'essai, non si capisce. C'è una strana norma, uno deve avere abitato per nove degli ultimi 10 anni all'estero. Se la sono inventata. Sai perché? Perché sennò un italiano fa, un ricco italiano va all'estero, poi rientra e paga solo 100.000 euro. Sì, no. Ma guarda, è una cosa che mi sembra che non sia né in cielo né in terra, insomma, perché se uno guadagna 10 miliardi paga 100.000 euro e a posto. Paga lo 0,1% quello che è, ma non esiste, dai. Cioè, no, ma è chiaro che è poco. Fa incazzare, ma è un modo per attrarli qui, così magari portano anche la loro attività oltre che i soldi, no? Sì, certo. Portano, riempiono i ristoranti, gli alberghi a 5 stelle, forse compreranno qualche qualche Ferrari in più, ma insomma, ma è questo il modo di, come dire, di affrontare quella che è la crisi nazionale. Cioè, non sembra, lo so, mi sembra l'ennesima. Ti sembra una trovata, buttata, una ma buona... sì, una trovata che non, anche questa non so se poi andrà a sbattere, sarà rapidamente rottamata. Sì, ma che devono fare questi? Non c'hanno Mago Merlino, d'altronde. Mamma mia, lo sapevo che voleva arrivare lì. Ce l'abbiamo Gentiloni su Mago Merlino, mamma mia. Ah, eccolo lì. Lei se non si parla di immigrati per 5 minuti, porcaccia miseria, sì. No. Guarda, ti do un assist che neanche ieri Neymar ha messi. Paghiamo la pensione allo stupratore bengalese, pagina 4 di Libero, in Bangladesh accusato di stupro, e invece qui ha un vitalizio perché gli è andato un disagio mentale. Oh, così dai, mettiamo carne al fuoco per la Lussana. Dai, senti Gentiloni. Ma sappiamo che su questa strada, per quanto impervia e arrischiata, possiamo ottenere gli unici risultati che oggi ci consentano non di cancellare il tema dell'immigrazione, perché non lo cancella neanche il Mago Merlino. Ha ragione, adesso ripartiamo da qui dal traffico, dopo il traffico, ma ha ragione, ma cosa ha detto di strano? Cioè, si deve cancellare l'immigrazione, ma come si fa? Ma come si fa a bloccare le persone che vogliono migrare da un paese dove stanno male a paesi dove pensano di stare meglio? Come si fa? Neanche il Mago Merlino ce la fa in questo momento a affermare questa cosa, su questo ha ragione. Comunque, la verità di Aurora Lussana e Umberto Brindani tra poco. Al mio segnale scatenate il traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Buongiorno Italia, vorrei sapere cosa c'entra lo sciopero delle donne con lo sciopero dei trasporti. Hanno preso un'altra palla al volo. Aurora, hai rotto! Lussana, fa la brava, subito no, dica te sei de Cantù, te sei nasceta bergamasca, fa niente te sposa una della Brianza, emigrata in Brianza, che ora anche ma un po' di generazione prima da dica te sei brianzola. Prendete dei provvedimenti come Trump, e allora la civiltà italiana, o civiltà italiana e Veneta in particolare, sarà salvata. Ecco, Gentilini, capito Brindani, Gentilini, quel che spara ai conigli, li vestiamo da conigli e gli spariamo. Pam, pam, dalle pam, protti, dalle e le protti. Le protti, sì. E gli spariamo. Pam, pam, pam. Bei tempi, quando c'era Gentilini. No, come Brindani, ma fai qualcosa, ma no, fermala, no. Ma fermala. Sentite, ma state trascurando la vera notizia di oggi, che non qual è? Cioè non è Renzi che torna all'attacco, no, è Berlusconi, no, che riparte Berlusconi dal McDonald's, ma secondo te me la sono persa, Berlusconi che va lì al McDonald's, mamma mia, è un'immagine triste quanto quella della birretta di Bersani, ma vi rendete conto? Un anziano al McDonald's. Che poi lo conosco bene quel McDonald's, perché è il mio McDonald's. Ah, ma infatti hanno detto che loro sono abituati ai VIP, a segrate, non si sono sconvolti. Infatti, quando arriva Brindani, arriva Berlusconi, è il McDonald's. No, capito, si è fatto servire la spremuta d'arancia al tavolo. No, scusa, non devi mica prenotare. Ma esatto, poi al McDonald's si fa la fila come tutti. Vabbè, si prende. Vabbè, comunque, no, cioè, vabbè. La casta al McDonald's, dai, diciamolo, facciamo la crociata. Ma no, ma lui è così, secondo me. È uno che va ovunque, non è... Ci sono altri più snob del Berlusconi. Sì, sì, ma da lì si capisce, da questi segnali, vero Umberto, si capisce che sta ripartendo proprio la campagna elettorale, no? Berlusconi... No, ma quello no, non ci vede. Ma dai, su... No, magari era curioso, che anni che non ci andava più, di capire il prezzo. Ma cosa sì, è un imprenditore più che un politico, ricordatelo. Quindi... Allora, vi posso dare uno scoop? Dacci lo scoop. So perché era andato lì, perché lì vicino lui prima era andato a Maison du Monde, questo grande... Bella la Maison du Monde, c'è delle cose carine. Esatto. E cosa avrà comprato alla Maison du Monde, che anche tu frequenti a questo punto? Chi lo sa, ci informeremo, adesso faremo un'inchiesta. Sì, Sì, sono le cose carine, arredo calve, sono francesi, però non è loro, sì, hanno tutte le cosine un po' sciccose. Va bene. Vedi come Aurora sta... Ma tu, Aurora, hai capito bene quello che il messaggio di quello lì, Brianzolo, che ti ha detto... Sì, è una vita dura per noi immigrati. Che praticamente sei un immigrato. Però tu sai che io, insomma, ho fatto un turismo sessuale, solo per quello che sono venuta embriata. In che senso hai fatto il turismo sessuale? No, nel senso che sono venuta qui per l'uomo, per il mare, cioè nel senso... Se non stavo volentieri, nel senso che ho trovato il manzo Brianzolo e sono venuta qui. Va bene. Che si chiama mica turismo sessuale? Insomma, il turismo sessuale, Brindani, adesso non in quanto esperto, ma perché ha fatto fare delle grandi inchieste. No, vorrei prima, è un'altra cosa. Insomma. Vorrei dire da Aurora che gli ascoltatori, magari quelli che abitano in Sicilia o che chiamano da Dubai, forse non sanno neanche la differenza tra la Bergamasca e la Brianza. Esatto, la Bergamasca e la Brianza. Ma siamo un paese di campanile. Ma è come dire la Spagna e la Catalogna del Barça. È come dire Pisa e Livorno, dai, ci siamo capiti. No, comunque io vi do un altro scoop, lui lo scoop sul McDonald's, il direttore, sì. Io lo scoop invece su dove passerà il suo compleanno Matteo Salvini oggi, 9 attenzione. Marzo. Attenzione! Sì, io lo so. Vabbè, vuoi dirci? Vogliamo dirlo a tutti i centri sociali che sono all'ascolto? Forza, andiamo a chiudere un indirizzo preciso. Dai. Alle 12 di oggi sì? Si festeggerà il suo compleanno. Qua, in provincia di Monza e Brianza, a Roncello, tra gli operai della Keyflex, in presidio permanente da oltre un mese perché verranno tutti licenziati. Mannaggia, questo dispiace per... Stasera? Stasera quello magari lo sa Brindani, non lo so. Lo sa Brindani, va bene, ecco che evita. Non abbiamo parlato di immigrazione, ma insomma, Brindani, che cosa ha detto di male Gentiloni a dire che ci vuole? Perché il Consiglio d'Europa ancora ci ha bacchettato a dire che facciamo poche espulsioni, non siamo in grado, non sappiamo gestire. Ma guarda Alessandro, adesso non voglio fare, non per fare pubblicità al mio giornale, ma l'editoriale... No. Che ho fatto sul numero che è uscito stamattina. Ce l'ho qua davanti. È proprio su questo argomento. Riporto semplicemente alcune cifre che ha snocciolato, che snocciola abitualmente Emma Bonino e sulle quali bisognerebbe tutti riflettere. Sono quattro numeri, no? Che dicono semplicemente ci sono 6 milioni di immigrati regolari in Italia che fanno l'8% del prodotto interno lordo, che pagano le tasse. Pagano le pensioni a 640.000 italiani, ci sono 700.000 famiglie che hanno immigrati in casa sotto forma di badanti e colf. Certo. Insomma, noi questi numeri ogni tanto dovremmo ricordarceli quando parliamo di invasione, perché senza gli immigrati non funzionerebbe assolutamente nulla. Mamma mia, adesso la senti la Lussana, senti che sfrigola. Ha partorito dal nervosismo un altro figlio nel frattempo. Vorrei anche ricordare quanto gravano sul nostro welfare, sul nostro sasso. Ma cosa vuol dire? Magari c'è una famiglia di immigrati, il marito lavora, poi sono quattro, comunque si parla di immigrazione irregolare, di rimpatri, sì, ci hanno detto che non siamo capaci di fare rimpatri. E questo rapporto del Consiglio Europeo è pesante, poi il Consiglio d'Europa è andato giù pesante, però va bene così, ripeto, bene così. Arriverà Mago Merlino. Ti vanno bene quelli che fanno le badanti? Quelli sono il problema del nostro paese, è che quando vai in un mezzanino della metropolitana ci sono lì 10 che ciondola, che non sai da dove arrivano, le badanti non sono mica in giro da fastidio a nessuno, c'è proprio una situazione, sono irregolari. Va bene, però io, attenzione, devo ritagliare gli ultimi 30 secondi perché c'è l'altro scoop. Oggi è la giornata degli scoop qui a 24 mattino, ragazzi. Lo scoop di oggi in copertina avete messo Belen con il figlio in moto, tutti e due senza casco, che uno dice, vabbè, lei, insomma, se decide anche... No, saranno stati fermi, no. Stanno andando. Andavano. Bella la Belen. Sì, bella la Belen, però insomma, sì. A parte che a me è bella, adesso non voglio fare, ma non è il mio prototipo di bellezza estrema, però bellissima. Vabbè, ma perché ti piacciono le donne colte, Ma cosa c'entra? Stiamo parlando di pura estetica. Non lo so se sia colta, sarà coltissima. È coltissima, Brindani? È molto intelligente. Vedi, questo poco ma sicuro, molto furbo.